questa cosa vale il fumo. Pensieri letti, pensieri indetti, per sempre sai. Ci sono pezzi di ricordi che son caduti sul pavimento. So quel che ho fatto e come l'ho fatto. Di te, sono niente senza di te.